Quest'anno scolastico è iniziato dal punto di vista dell'integrazione un po' zoppicante, nel senso che come ogni anno sui giornali, soprattutto locali, si è fatto un gran parlare di quartieri ghetto, classi ghetto, perché erano usciti i numeri delle classi in deroga, ovvero sia quelle classi che non rispettavano il tetto legislativo del 30% della presenza degli alunni stranieri o di origine straniera, poi dopo vedremo più nel particolare, per cui, come previsto dalla legge, per cui chiedevano una deroga. I numeri sono abbastanza alti, nel senso che nella sola città di Bologna parliamo di 709 classi in deroga, quindi se ne è parlato molto e come sempre se ne è parlato piuttosto male, nel senso che in Italia abbiamo da diversi anni una presenza di alunni stranieri molto forte, ma i cui numeri a livello reale costituiscono grosso modo il 9% della popolazione scolastica, qualche cifra in più per quello che riguarda la scuola dell'infanzia, ma anche dei numeri che sono cresciuti per le scuole superiori, ad esempio. Numeri abbastanza contenuti che però non raccontano bene quello che è la situazione, nel senso che all'interno di questo 9% di studenti con origine straniera noi ne abbiamo un 60% che è nato in Italia, che quindi sarebbe italiano se la legislazione lo permettesse. Quindi se ci fossero ius soli, molti di questi alunni non sarebbero considerati stranieri, ma sarebbero considerati degli alunni italiani a pieno titolo. Se ne è parlato molto, quindi, di questi numeri molto alti, numeri alti che evidentemente sono più forti in quartieri, forte presenza di cittadini stranieri, come possono essere la Bolognina, come può essere San Donato, ma il loro numero è sparso un po' per tutta la città, per cui ci sarebbe la possibilità anche di capire come intervenire, anche perché un dato molto interessante che riguarda la situazione degli alunni stranieri è che le nazionalità di provenienza sono ormai di paesi da storica immigrazione in Italia, perché poi abbiamo la Romania, il Marocco, l'Albania, la Tunisia, le Filippine, il Pakistan, la Moldavia, l'Ucraina e la Cina. Quindi ci sarebbero ormai dei dati che ci permetterebbero di intervenire in maniera più corretta. Ti chiederei di parlare un pochino di questa legge che poi queste 700 classi a Bologna hanno derogato, nel senso la legge, dicevi, prevede che non ci sia più del 30% degli studenti di una classe che sono stranieri. Ora, tu prima facevi riferimento al discorso dello ius soli, perché suppongo io, visto che non viviamo in un paese con discriminazioni razziali, almeno istituzionalmente in teoria, il limite del 30% è per una questione di integrazione linguistica e non per una questione di razze, diciamo. Esatto, allora il discorso è molto particolare, nel senso che noi abbiamo una situazione in cui non bisogna andare nella direzione di costruzione di classi ghetto, cosa che poi è un problema reale, perché in molte scuole assistiamo al fenomeno di genitori madrelingua italiane, diciamo, che spostano i loro figli perché ci sono troppi stranieri. Basandosi su cosa? Basandosi sull'elenco dei cognomi. Quindi questo è abbastanza preoccupante. Noi purtroppo abbiamo un sistema legislativo per la presenza degli alunni stranieri a scuola che risale all'epoca della Bossi-Fini. L'ultimo documento è del 2014, sono le linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri. Questa normativa aveva un po' l'intento, diciamo, di sancire l'obbligo scolastico, l'accoglienza scolastica, seppur con delle forti limitazioni, ma è una normativa che rispondeva all'esigenza, fra virgolette, di frenare l'invasione dal punto di vista degli estensori della legge, per cui non agiva per creare un tetto, in maniera però escludente, non includente, nel senso che la nostra legislazione che possiamo mettere a servizio dell'inclusione degli alunni stranieri è molto limitata. Teniamo in considerazione che a livello legislativo viene presentata la figura del NAI, l'alunno neo arrivato in Italia, per quegli alunni che sono in Italia da meno di 2 anni, nei confronti dei quali noi possiamo prevedere una sospensione della valutazione per favorire l'apprendimento della lingua, quindi dell'italiano come lingua seconda, diciamo, e farlo diventare una lingua di studio per il momento. Poi dopo si potrebbe trasformarlo nella prima lingua. Questo dispositivo concede delle tutele, ma si limita solamente a 2 anni, nel senso che superati quei 2 anni lo studente viene considerato uno studente come tutti gli altri. Di fatto questo è una finta inclusione, perché vengono lasciati in sospeso una serie di problematiche, soprattutto a livello linguistico, che hanno bisogno di un tempo maggiore per essere stabilizzate. Tant'è che il risultato di questa situazione è che molti degli studenti non nati in Italia che entrano nelle scuole si indirizzano verso gli istituti professionali. Molti degli studenti di origine straniera, il 32% stiamo parlando, viene bocciato al primo anno delle scuole superiori e accumula un ritardo a fronte del 10% degli italiani.